Oppure se volete proporci le vostre autoproduzioni, insomma, scriveteci. Saremo ben felici di passare le vostre cose. Nonché un altro modo per sottoscrivere alla radio, se volete donarci appunto le vostre autoproduzioni, saremo ben felici di ospitarle sul nostro banchetto. Quindi buono per due cose, per far conoscere voi, per sostenere la radio. Non per ultimo il numero di telefono 06491750. E ci sono venuti a trovare questa sera il collettivo Jellyfish. Cominciamo con le presentazioni. Beh, no, il vizio è sempre lo stesso, eh? Sì, ecco. Allora, schiacciare il master e alzare il cursore. Sì. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Io sono Andrea. E io sono Antonio. Siamo parte del collettivo, del gruppo di amici Jellyfish Do It Yourself Show. E che cos'è questo collettivo? Innanzitutto Jellyfish, da dove nasce il nome Jellyfish? Allora, il nome Jellyfish nasce da un lungo periodo di ricerca di un nome, e in realtà non nasce perché mentre cercavamo un logo adeguato, Silvia, che è parte del collettivo, ci ha proposto vari disegni. Uno dei disegni più belli era quello di queste meduse che le disegna, da lì Jellyfish. E non so se è più un collettivo, un gruppo di amici, è, diciamo, più o meno qualche mese fa, tornando dal Fluff Fest, e ci siamo detti: perché non iniziamo a cercare di far suonare alcuni dei gruppi che abbiamo sentito in questo festival a Roma? E niente, semplicemente ci siamo dati un nome e poi diciamo che siamo amici. Vogliamo parlare del Fluff Fest per chi non lo conosce come me? No, io ammetto le mie ignoranze. Allora, il Fluff Fest, io ci sono stato per la prima volta quest'anno, forse Lorenzo, che è qui, ci sa dire di più. È uno, se non il festival più grosso per quanto riguarda l'hardcore e i sottogeneri derivati. In Repubblica Ceca. Sono 3 giorni di concerti tra i nomi più grossi del genere. E al di là della musica, insomma, io quest'anno è il primo anno che ci sono stato e sono rimasto abbastanza sconvolto. Ma in pratica, dopo l'essere andato in questo festival, vi è venuta la voglia, insomma, di voler creare, insomma, qualcosa, organizzare qualcosa? Ma pensavate, insomma, che mancava a Roma un qualche genere musicale che non... qual è stata la scintilla che vi ha fatto poi... Ma guarda, in realtà non sappiamo se proprio mancava qualcosa. C'è forse... magari per quanto riguarda lo screamo, per quanto riguarda l'attenzione a determinati gruppi, forse qualcosina mancava. Adesso poi sicuramente erano... diciamo che forse il problema di Roma, più che la mancanza di chi organizza, è forse proprio la posizione in sé della città, che molto spesso impedisce, cioè i gruppi si fermano sempre nella parte nordica dell'Italia. No, poi non è che ci deve essere per forza il lato del dovere, no? No, cioè, poi è la esatto. Gioia di organizzare le cose da soli. Esatto, ci faceva piacere perché, insomma, sono contattare gruppi che per noi magari sono un po' da una parte un po' degli idoli, a volte anche spesso anche degli amici, e quindi era una cosa che volevamo fare appunto per questo motivo. Invece parliamo un attimo invece di quello che c'era prima di Jellyfish, quindi qual è il vostro percorso musicale che vi ha fatto arrivare poi a conoscervi? Ok, allora diciamo che di base noi di Jellyfish siamo noi Bastian più il nostro amico che è Betanin. Noi Bastian ormai suoniamo da più o meno un anno e qualcosa. Io lì nei Bastian faccio la voce. Sono entrato più o meno proprio verso novembre-ottobre dell'anno scorso, mentre ci sono entrato tramite Lorenzo, che è il bassista di Bastian ed è bassista anche di un altro gruppo in cui io già suono, che sono i Morsest Janovite, in cui facciamo tutt'altro. Abbiamo iniziato a suonare noi facciamo quello che viene catalogato come uno screamo post-hardcore, a tratti anche hardcore, però diciamo quel che va in quel grandissimo calderone di gruppi che può essere definito tramite screamo. Oltre a questo veniamo più o meno tutti da esperienze abbastanza diverse, possiamo dire, cioè sia Andrea che Silvia per esempio suonavano insieme molti anni fa in gruppi di matrice più hardcore, Lorenzo sempre in ambito punk, io per esempio suonavo in altri generi, proprio stoner, facevo metal, facevo quindi proprio tutt'altro, facevo proprio altri generi. Ci siamo ritrovati a suonare insieme e in realtà appunto Jellyfish è abbastanza anche un, può essere chiamato un collettivo, ma sono abbastanza degli amici che si sono detti dai facciamo una cosa che vogliamo fare proprio concretamente, cioè vogliamo organizzare delle cose per dare modo sia a chi sta fuori ma anche per creare più attenzione magari a un genere che a Roma ogni tanto viene seguito e molte volte no. Diciamo che a Roma non ci sono spazi, ci sono spazi per farlo perché il Dal Verme in primis è uno spazio a cui noi per esempio siamo molto legati, che ci ha fatto suonare le primissime volte, ed è uno spazio in cui si suona questo genere, si può fare anche l'Alvarado e ci sono dei centri sociali molto presi a bene nel fare delle iniziative su questo genere. Per esempio noi adesso ci stiamo appoggiando a Spartaco, sì, che sarà dopodomani. Bene. Sì, poi a parte lo Spartaco, come dici te, l'Alvarado e sì, principalmente i posti sono questi. Noi appunto tramite l'Alvarado poi abbiamo organizzato anche prima di avere il nome Jellyfish, insomma, abbiamo chiamato due gruppi dalla Germania, Reason to Care, Slow Bloomer, e abbiamo fatto questo concerto che era più o meno settembre-ottobre. Sì, era a metà settembre, dove abbiamo suonato anche noi e il set acustico di Ailo. Insomma, è stata come primo concerto un'esperienza molto intensa, è stato molto bello, ecco. Sì, anche perché è stato molto bello, sì, sicuramente perché c'è stata molta partecipazione. E intanto questa è una cosa che ci ha fatto veramente veramente molto piacere. Anche perché erano due gruppi fuori dalla Germania che a Roma penso nessuno conosceva. Sì. E hanno venduto tanto al merch, è stato proprio bello. Loro anche sono state, a parte loro sono delle persone bellissime, però è stato veramente bello averli portati qui a Roma. Però sì, molto contenti quando sono tornati in Germania. Sì, questo sì. Appunto stavo riflettendo a quanto dicevate, poi dall'entusiasmo personale nel fare le cose insieme, nel voler proporre la musica che si ama, poi la cosa bella è di arricchire pure la scena insomma romana di altre iniziative, di altri generi musicali, cioè non rimanere alla lamentela però a Roma questa cosa non si può fare, oppure va solo questo genere musicale, cioè è possibile fare quello che si vuole con impegno e lavoro, certo, la voglia. Sì, raga, sempre. Sì, sì, no, vedere gente che poi viene al concerto, va ai concerti di questo genere ed esce soddisfatta, comunque è una vittoria, anche se poi magari non la vedrai mai più, cioè comunque quella sera si è stati bene. Vabbè, già che insomma vi vengono a conoscere c'è curiosità, insomma. Esatto, sì, esatto. No, assolutamente, perché senti, dopo un po' di chiacchiere io comincerei a far sentire qualcosina. Ok. E qui c'ho, ovviamente insomma l'organizzazione è quella che è la mia, e io ho pronto qui Wayne Bastian per convivere. Ok, no. Allora, credo che sia il primo pezzo, mm-hmm, dello split Wayne e Bastian, cioè appunto del gruppo nostro insieme a Wayne, che sono un gruppo di, non mi ricordo, Udine. Di Udine, con cui abbiamo diviso questo split, che è il nostro primo, primo e anche il loro primo lavoro. E su che supporto è uscito? Su cassette per Stay Home Record, che è l'etichetta dei Wayne, cioè mm-hmm, i ragazzi dei Wayne che hanno questa etichetta. Siamo comunque tutti noi legati molto alla cassetta. Oltre alla cassetta, ma anche al do it yourself, diciamocelo. Sì, cioè, è proprio una cosa in cui crediamo maggiormente. Quindi quando Alex ci ha detto: ragazzi, io vorrei stampare, Alex è il cantante di Gwen, vorrei stampare con la mia etichetta, abbiamo detto sì, fississimo, cioè stiamo, va benissimo. Ma poi, cioè, si vendono le cassette? Le cassette si vendono, c'è nel tempo una crescita sicuramente dell'utilizzo del formato della cassetta, e si vende, fortunatamente si vende, questo lo dico io a tono personale perché a me piacciono particolarmente le cassette, si vendono. Ma poi immagino che, insomma, il costo di produzione sia superiore a quello del CD, forse, no? No, il costo di produzione è anche minore, quindi questo è un lato addirittura positivo, perché vai a pagare anche di meno. Sì, noi abbiamo pagato, con l'altro gruppo abbiamo invece stampato dei CD, abbiamo pagato di più, ma poi diciamo che comunque, beh, quello rientra nella categoria di mi sono comprato l'oggetto, tanto poi alla fine lo ascolti su internet, e infatti i pezzi, come per esempio quelli dello Split, si possono, cioè si trovano tranquillamente su Bandcamp in free download. Però è anche un bell'oggetto, come può essere il vinile. Io non so se tutti quanti ascoltano poi il vinile a casa, io personalmente. Io sì, no. Io in realtà mi ascolto anche le cassette. Ah, sincero. Ok, allora ho detto no. Però è vera questa cosa che magari il vinile. Insomma, lo acquisti perché è il feticismo dell'oggetto. Il feticismo, poi per una praticità, sì, esatto. Tempi infernali che viviamo, magari quel disco lì te lo ascolti attraverso altri canali. Esatto. Va bene. Sì, è vero. Però... Allora, Wayne Bastian è uscito quando? Questo è uscito più o meno a fine marzo, inizio aprile del 2015. I pezzi nostri dei Bastian sono registrati a Ombre Lobo, mentre i pezzi di Wayne sono stati registrati, mi pare, in un homemade a Udine, ma sono stati sempre mixati da Valerio di Ombre Lobo qui a Roma. Ok, e noi ci ascoltiamo Wayne e Bastian. Titolo del pezzo, lo volete annunciare? Non so quale stai mandando, però... No, per convivere... Ok, sì, è quello dei Wayne. Ok, perfetto. Wayne. No, vabbè, giustamente o ingiustamente stiamo facendo un casino. Questa è un'occasione per rilanciare il pezzo da capo. Allora, quale stavamo tentando di ascoltare? Stavo tentando di ascoltare il pezzo dei Bastian. No, The Wayne prima. Ah, ancora quello di allora, Wayne era passato. Premettiamo che neanche noi ci ricordiamo i titoli dei nostri pezzi, né di quelli degli Wayne. Che è un problema grosso, tecnico, per lanciarli. Poi, soprattutto poi, quando vengono mandati due pezzi insieme, cioè già mixati con una cosa a caso, insomma, vabbè. Iniziamo con quello dei Wayne prima, okay, dai. Ok, vai. Insomma, in ordine abbiamo ascoltato Wayne e poi Bastian. Invece il pezzo questo che abbiamo ascoltato fa sempre parte dello split. Sì, fa sempre parte dello split, che è stata la prima uscita per entrambi i gruppi. Questo è nei nostri sbiaditi ricordi. Esatto. E ormai è un pezzo che ha più di un anno, però è tuttora un pezzo che per noi è molto molto importante. Il titolo l'abbiamo googlato per ricordarcelo, chiariamo. Sì. Sì, no, no, vabbè, poi della facilità no, ne parlavamo ieri sera con i Leviathan, traccia 1, 2, 3, quanto c'ha di più facile. No, no, poi è molto risolutivo, secondo sì, me. Poi insomma ci si sbaglia comunque. Va bene, e lo stavamo dicendo prima, cioè questa di sabato allo Spartaco, la seconda iniziativa di Jellyfish. Sì, diciamo la prima barra seconda, la prima sotto Jellyfish, cioè come diciamo con un nome proprio vero e proprio. La prima ufficiale. La prima ufficiale. Suoneranno i Rain da Forlì, alla quale siamo tutti molto legati, e poi ci saremo noi con i Bastian, i Lags, che sono un gruppo di Roma, e i Godog. Ma i local heroes di Roma comunque. Esatto. Chi? I Godog. I Godog, certo, certo. Conosciamo, conosciamo. E, no, parlavamo, cioè poi le migliori chiacchierate avvengono sempre a microfoni spenti, no? E, si parlava prima dell'organizzare concerti anche per rendere vive le zone che abitiamo, insomma, no? Sì, è un discorso a cui personalmente sono molto legato. Crediamo abbastanza tutti, veniamo in realtà da punti abbastanza disparati di Roma e non, calcolando che Silvio comunque è di Pomezia addirittura, veniamo proprio da punti disparati, sia da Montesacro che da Spinaceto. Io sono da Acassia. E da Acassia addirittura, e in realtà veniamo più o meno tutti da contesti abbastanza di borgata, e in questi contesti di borgata diciamo bene o male tutti crediamo nella musica come una cosa che ti fa uscire da questa situazione quasi esistenziale. Quindi assolutamente ci sta un voler fare le cose perché c'è un bisogno interiore proprio di farle. E penso che sia una delle cose che ha fatto partire anche Jellyfish come iniziativa. Ora in realtà ci stiamo organizzando in situazioni più centrali di Roma, però ammettiamo che ci sta anche l'idea comunque di organizzare anche in altri spazi, in spazi occupati soprattutto, perché diciamo richiamare una collettività o rendere partecipe il territorio è una cosa a cui molti di noi sono interessati e sono intenzionati, ecco. No, anche perché altrimenti insomma i concerti si continuano a fare sempre nei posti storici o nei posti conosciuti più centrali, e rimangono le periferie che ospitano ancora posti occupati. Ospitano posti occupati e ospitano soprattutto tantissime persone che vogliono fare cose. Che poi ospitano, insomma, sono gli spazi occupati che si. Sì, c'è stato quasi uno scambio. Che si ritagliano il proprio spazio libero. Sì, ci sono. Io posso parlare personalmente proprio di Spinaceto. A Spinaceto c'è tantissima gente che suona. Ed è una cosa a cui ambisco personalmente, ma in realtà tutti noi a far rinascere anche questi posti, diciamo, questi luoghi in cui c'è tanta voglia di fare, molte volte non ci sta un posto dove fare, o non c'è il pensiero di ce la posso fare, cioè posso fare qualcosa, perché in realtà tutti vogliono fare, ma molte volte non ci sta proprio, non si vede una possibilità. La possibilità ci sta sempre, a me. Però magari c'è qualche altro ragazzo, magari giovane all'ascolto, che dice non è possibile organizzare quel concerto che voi state facendo, quindi magari l'autorilanciarsi, no? Cioè magari da questa iniziativa qui poi magari ci può essere la scintilla per avviare un lavoro politico con il centro sociale di zona o con un altro spazio occupato o altro. Assolutamente, insomma. A me viene in mente proprio una cosa che può essere banale, ma fino a 3 anni fa non c'era il Britfest a Roma. Il Britfest è una cosa che ora come ora porta tantissime persone si interessano, sia per quanto riguarda proprio l'autoproduzione di materiali, sia per quanto riguardano i concerti, ed è fatto da ragazzi comunque che al massimo hanno la nostra età o leggermente più. I Leviathan stessi fanno parte della gente che organizza il Britfest. È stato secondo me anche un seme quello, e diciamo oltre l'organizzare concerti penso che questi collettivi qui, che comunque nascono tutte da delle situazioni sociali molto simili hanno l'obiettivo anche di lanciare dei semi, perché se ce l'abbiamo fatto noi, raga, a fare Ain, che ci abbiamo 23 figurato, anni naturalmente, che ci abbiamo 23 anni e soltanto uno di noi lavora, ce la può fare chiunque. Se ci avete voglia di fare le cose, si può fare. Anche e soprattutto nelle zone, insomma, assolutamente sì, represse dal punto di vista di questo genere musicale. Mi è venuto in mente, è facile che ti viene in mente, insomma, Ostia Palusa, in quel di Ostia, insomma, certo, non, certo, non c'è questo grandissimo panorama ed attività musicale ad Ostia. L'Ostia Palusa è un festival. Viene molto seguito, cioè, importante anche a livello azzarderei nazionale, perché insomma ribadiamo anche l'importanza degli spazi sociali occupati per realizzare queste cose, nel senso il locale giusto o sbagliato delle sue necessità, delle sue esigenze, il centro sociale ti dà la possibilità di esprimere, di organizzare concerti, di creare situazioni e dinamiche che altrimenti non si potrebbero realizzare, e questo a Ostia si vede tantissimo, si vede tanto nei nostri quartieri più periferici come a Roma Est, come lo stesso Spartaco che ci permetterà di organizzare questo concerto, mentre altrimenti sarebbe stato molto difficile portare avanti questo progetto, ecco, senza la presenza di spazi come questi. Sì, sicuramente l'importanza, diciamo, di un ritorno al territorio. E anche senza la gente, insomma, che c'ha voglia di fare, perché poi lo spazio, se non gli arrivano energie dall'esterno, sì, è vero. Non si arricchisce, no? Certo, è vero, questo è vero, però è quasi un pensiero positivo, addirittura addirittura. Un pensiero positivo. Secondo me c'è sempre bisogno, e ci sarà sempre gente che avrà voglia di fare. E se lo dice Antonio, un pensiero positivo, che dovete fidare, perché è tipo una volta nella vita. Esattamente, però oggi lo diciamo, un pensiero positivo, e c'è gente sempre che una certa si stufa che non si fa la roba, e quindi c'è bisogno, c'è sempre un bisogno costante di essere attivi e di far rivivere determinati posti, che poi si possa riuscire o non si possa riuscire, questo è un altro discorso, ma che comunque ci sia la volontà di farlo, ed è la cosa più importante, perché noi veniamo dal punk, tramite alcuni generi, chi tramite altri, però il bisogno di fare è la cosa primaria, perché anche quello è espressione, non solo la musica. Yes. Beh, insomma, dopo questo momento mistico, io passerei ai Rain. Yes. E, è facile questa, no? Traccia 1? Uno di sei. Però l'album non è semplice, perché? Nato da altri padri, poi è stato rinominato, ristampato come ogni nuovo inizio. Quindi, diciamo, ogni nuovo inizio. Amano complicarsi la vita. Sì, loro hanno fatto l'inghippo sul nome dell'album, non sul pezzo. E il pezzo è uno di sei, non te puoi sbagliare. I Rain, ricordiamo da dove vengono. Da Forlì. Rain, Radio Onda Rossa 87.9. Questo è Do It Yourself Invasion. Vabbè, nel frattempo entrano disturbatori qui in redazione. Anche il bello della diretta. Anche il bello della diretta, certo. Ci stanno anche molestando su Facebook, è veramente difficile da gestire. Siamo in tre, uno di noi è particolarmente social, quindi. Sì, no, no, ci sono due persone fisiche e un essere digitale. Esattamente. Okay. Io sono l'essere digitale, ciao. Molto in questo periodo si sta parlando molto di Philip Dick, quindi ci siamo bene. Ok. No, vabbè, comunque no, ricordiamo il menù di sabato. Sì. E io propongo questa bellissima cosa, insomma. E sabato 5 dicembre non c'è solo il concerto organizzato da Jellyfish. Rompere la gabbia, presentazione di Scarceranda 2016. Quindi un dibattito sul carcere e la repressione. Se ne parlerà con la redazione di Radio Onda Rossa. Salvatore Ricciardi, che presenterà il suo libro, il suo ultimo libro, Cos'è il carcere? Vademecum di Resistenza. Mattia Smoretti e la Rete Evasioni. Quindi dalle ore 17:30 una nuova occupazione in zona Villa Gordiani. Si chiama Ottava Zona, via Lussin Piccolo 19. Quindi dopo la presentazione di Scarceranda, il dibattito, seguirà una cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Mai come ora c'è stato il bisogno di versare qualcosa in cassa qui alla radio. Quindi il programma è questo. Dalle 17:30 tutti a Ottava Zona. Una cena a sostegno di Radio Onda Rossa e poi tutti a Spartaco. Esatto. Che ve ne pare, insomma. Ah, non, non ci sono scuse. Ma pure se non venite a Spartaco, andate agli altri 1000 concerti che ci sono a Roma. Dopo questa cosa andate in qualche parte, vivete il vostro sabato sera in basta che non vedete la Roma. Non state a casa comunque, dai. Vediamo anche la Roma comunque, però ci sono tanti concerti questo sabato e tante realtà diverse, andate ai vari concerti, anche se non venite da noi, ma andate ai concerti perché e andate alle cene, insomma, esattamente, esattamente, si parla tanto di gente che organizza, ma la gente che organizza può fare anche grazie solo alla gente che dopo partecipa. Quindi ci sono tantissime iniziative questo sabato. Andate, andate, andate. Noi continuiamo con la scaletta inerente, insomma, all'iniziativa di sabato. E ci abbiamo pronti i Lags? I Lags. Va bene? Sì. Sì. Ti ricordi la traccia? The Stream. Grande. questi erano i Lugs, quindi da Roma. I Lugs da Roma sono un gruppo formato più o meno, sono formati più o meno 2 anni fa, hanno avuto qualche cambio di lineup. Adesso sono usciti da ottobre con il loro primo album sotto Toulouse Lautrec e si ispirano un po' a un post-hardcore americano, comunque ai primi a The Drive-In, e molto molto promettenti, anche molto molto simpatici. Sì, però diciamo che Antonio è anche più bello. Antonio, che è il cantante, indubbiamente più bello del cantante. C'è una bellezza mediterranea. C'è un richiamo anche estetico. Estetico, insomma. sì. Esatto. Va bene. E è rimasto un gruppo che suonerà sabato a Spartaco. Sì, sono rimasti Godog o Godog, come personalmente io li pronuncio. Sì, loro sono attivi da un bel po' di anni e con gente che hanno, mi pare, cambiato anche loro abbastanza un paio di membri. Però tendenzialmente il nucleo è Claudia dal Verme, conosciuta per Cassandra e altri mille gruppi nell'underground romano e non. E in più da Silvia Six, che ci delizia sempre con le sue locandine. Loro sono i Godog, che fanno un punk che non è punk, diciamo che hanno delle strutture un po' più particolari, non sono per nulla banali, hanno ortogonali. Dei testi ortogonali, assolutamente, e hanno talvolta anche, questo talvolta è richiamato, hanno dei testi molto irriverenti, ci piacciono molto e soprattutto sono anche molto degli amici, quindi abbiamo deciso di coinvolgerli in questa serata. E questi sono i Godog. Ci ascoltiamo Zanzare. E Zanzare. e queste erano le Go Dog. Quindi siamo ben oltre le 22, siamo in pieno spazio di apostasia, non ce ne vogliano, però insomma vi dovete cibare i nostri ritardi, quindi rimanete all'ascolto, tra poco apostasia. E niente, siamo giunti ai saluti finali, cari Jellyfish. Grazie. Allora sì, saluti finali, vi salutiamo, ringraziamo intanto Radio Onda Rossa e Do It Yourself Invasion. Assolutamente. Grazie a voi. E speriamo di vedervi il 5 dicembre allo Spartaco. Questo è per Bubi. Oltre a questi messaggi messaggi subliminali, assolutamente sì. Va bene, noi insomma l'iniziativa della cena sempre del 5, poi vi ricordiamo appunto sia a Spartaco, ma ci sono concerti ad Acrobax, ci sono concerti ovunque in spazio a Roma, quindi uscire di casa, mi raccomando, è la cosa principale. E soprattutto anche l'iniziativa dell'11 adesso la ricordiamo. Noi ci lasciamo con un invito, insomma, a rimanere in contatto, ci siamo conosciuti, è stato un piacere per noi. Facciamo nascere qualcosa, facciamo nascere una relazione, come ci piace fare a noi da queste parti, e noi siamo sempre disposti a delle relazioni, dai. Grazie, si fa piccante qua, va bene. Grazie a voi ancora, grazie Jellyfish. Grazie a voi, ciao. E vanno sotto i Destroyer System, giusto per ricordare, venerdì prossimo altra presentazione di Scarceranda al Forte Prenestino. Quindi ecco il paizzo che ci porta alla locandina, insomma, Against Repression Night, titolo che va a riprendere un'iniziativa del 2003 in quell'occasione con Comrades, Dirty Power Game, Wizard e tanti altri. Quindi Against Repression Night, una serata a sostegno di Radio Onda Rossa, dalle 18.30 la presentazione di Scarceranda, a seguire la cena evasiva dalle 20.30, dalle 22.30 concerti con Karakuri, i Cenere, i Leviathan, ospiti ieri sera a 25 o'clock, e i Ratten Kunig, che sono la nuova incarnazione dei Destroyer System. Loro ancora non hanno nulla registrato, quindi ci ascoltiamo qualcosa dei Destroyer System. Tutta la sera insomma sarà condita dall'esplosivo di G7 di Lady Crime. Venerdì 11 dicembre, Forte Prenestino, loro sono i Destroyer System. Bella!